Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine, andremo avanti fino alle ore 21:30 da adesso, ma prima andiamo con la sigla di questa trasmissione. Bene, intanto mentre sta andando la sigla iniziale per questa trasmissione, che ricordo essere Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica fino alle ore 21:30, dalle ore 20. Anche oggi 12 febbraio 2026 siamo qui. E ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di una band inglese, loro sono le Bikini Mutants, e devo dire che questo è un album diciamo rimasterizzato e ristampato proprio in queste settimane. È un album uscito nel 1982, diciamo un'operazione di riesumazione, perché è l'unica uscita discografica per questa band che è esistita nella zona inglese, zona di Londra. Comunque ascoltiamoci queste Bikini Mutants dal loro album Let's Mutate. Una vita tutta nel tuo Sì, un saluto anche da parte mia. E allora, un breve sommario di quello che sarà un po' così gli argomenti della serata. E parleremo della degenerazione di un progetto di autogestione e autodeterminazione contadina. Mi riferisco a Mondeggi Bene Comune, o anche come viene definito dai critici Bene Comunque, punto di domanda. Però parleremo di questa esperienza anche così per una riflessione un po' più allargata rispetto a così a quali sono i rischi di progetti di questo genere, e poi daremo spazio anche all'argomento carcerario attraverso alcune lettere di prigionieri. I know there's nothing left behind me. I'm already ahead of me. You see my future and what it was. Well, I think I know the words that I mean. You know me, I'm acting dumb, dumb. You know, see, I'm drunk, bored on, bored on. Ba-dum, ba-dum. Eccoci qua, allora, così le cose che leggeremo, che diremo, sono tratte da un opuscolo che si intitola appunto Mondeggi Bene Comunque, la fine della fattoria senza padroni. È uno scritto che risale al giugno 2024, quindi non è recentissimo, ma comunque racconta un po' tutta la storia di questa esperienza di autogestione e autodeterminazione, e anche appunto quello che poi è successo, il processo di degenerazione, diciamo, svendita ideale, che è iniziato nel 2021. Facciamo appunto un passo indietro. Allora, Mondeggi è praticamente attaccato a Firenze, fa parte della città metropolitana di Firenze. Era una tenuta che praticamente doveva essere pubblica e che era insomma preda, diciamo, di un progetto di svendita e di privatizzazione, e nel 2014 viene occupata da un casino di persone, appunto molte delle quali già attive in ambito agricolo, insomma in ambito contadino, e appunto e viene ridefinita, viene fondata come Mondeggi Bene Comune, fattoria senza padroni. E appunto gli occupanti occupano case e terreni sull'onda della campagna per l'accesso alla terra lanciata sempre nel 2014 dal movimento di Genuino Clandestino. Da quel momento e per insomma un bel po' di anni, fino appunto al 2021 in maniera proprio compiuta, e questi occupanti danno vita a un esperimento di autogestione. Diciamo i punti forti sono l'autodeterminazione alimentare, la gestione agroecologica e comunitaria delle terre, che poi sono anche parecchie, 170 ettari, e appunto la riscoperta e la condivisione dei saperi contadini. Intorno all'anno 2021 viene sottoposta, c'è il rischio di uno sgombero, insomma, c'è la minaccia di uno sgombero. E siamo anche in pieno periodo pandemico, no? 2021, quindi c'è una crisi generalizzata anche di sostentamento, diciamo, da parte della comunità autogestita di Mondeggi, perché sì, in quel momento lì è difficile, diciamo, fare i mercati, insomma, tutte queste cose qua. Quindi per persone che lavorano senza usufruire della logistica e della grande distribuzione non era semplice, quindi c'è una crisi, diciamo, abbastanza importante. E i fetentoni della città metropolitana, cioè il comune praticamente di Firenze, diciamo, si inserisce in questa situazione così di crisi e fa una proposta tentatrice e traditrice a Mondeggi Bene Comune, e cioè propone di legalizzare l'occupazione e di riqualificare la tenuta intercettando i fondi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E praticamente propone alla comunità di Mondeggi di partecipare a questo maxi progetto metropolitano finanziato con oltre 50 milioni di euro di denaro pubblico. Questa così operazione diabolica, in un certo senso, innesca tutta una serie di problematiche. Insomma, alla fine Mondeggi Bene Comune si insedieranno in questa vita di comunità tutta una serie di dinamiche di potere, scazzi, tentennamenti, attese, complicità con le istituzioni, eccetera eccetera, che porteranno ad aderire a questo progetto di riqualificazione. Quindi, diciamo, ci sarà una maggioranza, non tanto una maggioranza numerica quanto una maggioranza in termini di struttura di potere, che aderirà e andrà avanti per questa strada, e invece tutte le, insomma, i soggetti dissidenti che saranno costretti a uscire, quindi abbandonare, come dicono loro, casa, terra e comunità. E l'opuscolo è scritto da alcuni occupanti che critici chiaramente di questa deriva, che però ammettono anche che scrivono ancora, diciamo, scrivono nel 2014, nel 2024, e scrivono ancora sotto, diciamo, in una emotivamente molto coinvolti e anche molto legati ancora all'esperienza comunitaria. E l'opuscolo è interessante perché, diciamo, analizza anche molto in dettaglio il PNRR per quanto riguarda vari aspetti, ma anche in maniera specifica per quanto riguarda quello che prevede il PNRR per l'agricoltura, che è chiaramente l'argomento centrale trattandosi questa di una fattoria, e quindi anche tutte le implicazioni, cioè cosa significa prendere dei soldi pubblici, ma cosa significa prendere dei soldi dall'Europa, soldi che sono vincolati all'affermazione senza nessun tipo di difesa di un neoliberismo sfrenato, insomma, e anche di una digitalizzazione dilagante, imperante, indispensabile in questa fase, diciamo, storica per l'affermarsi, appunto, totale del capitalismo. E quindi analizzano un po' questo discorso del PNRR, però poi anche quindi fare una critica puntuale anche di tutte le gli alibi anche che la Mondeggi bene comune si dà, cioè la gestione di Mondeggi bene comune si dà per continuare comunque a collaborare appunto con le istituzioni. Analizza molto bene anche tutte i trucchi, i magheggi che l'istituzione fa, tutti i comportamenti che l'istituzione mette in atto per appunto tutte le strategie mistificatorie e manipolatorie che mette in atto per intortare ancora meglio, insomma, anche diciamo chi era in buona fede. E poi però fa anche un'analisi delle dinamiche interne, insomma, di quello che ha funzionato e che non ha funzionato nelle dinamiche assembleari, nelle modalità del consenso, eccetera eccetera, che è utile quindi non solo per questa esperienza qua. Difatti loro hanno scritto questo opuscolo anche perché dicono è importante non rimuovere questo che su questa cosa che è successa, ma è anche importante riflettere, diciamo, in senso più generale, no? Perché progetti di questo tipo potrebbero esserci in altre situazioni e, insomma, comunque in ogni situazione che tenta una via alternativa a quella dominante ci possono essere delle situazioni, insomma, come questa, ecco, si possono creare situazioni come questa. E allora, prima di mettere ancora un po' di musica, volevo dire solo questo, che Mondeggi, cioè del fallimento della, non so, della debacle di Mondeggi bene comune, ha parlato anche si è parlato anche sulla nave dei folli, bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica, nella puntata del 10 novembre 2025, e anche qui in maniera molto interessante, diciamo che la nave dei folli ha affrontato nello specifico una questione che è legata, diciamo, alle modalità relazionali e comunicative della società cibernetica, e perché quando diciamo scoppiano tutte le contraddizioni all'interno della comunità degli occupanti e della comunità del comitato di gestione, e quando insomma sono proprio ai ferri corti, e provano a chiamare in causa un gruppo di facilitatori che fa venire il brividi giù per la schiena, ma a me personalmente. Però loro provano anche a fare questa cosa qua, chiamano questo gruppo di facilitatori diciamo così fondato da un tal Delfino, che è un nome d'arte, Delfino, che è uno che ha girato insomma negli ambienti anarchici prima di dedicarsi a questa roba qua. Però appunto, quindi la nave dei folli analizza questo, anche proprio il dispositivo, che cosa significa, no, chiamare un facilitatore, che cosa sono queste figure professionali che sono addette a risolvere i problemi delle comunità, no? Come se le comunità non fossero in grado di auto-organizzarsi anche per affrontare le contraddizioni e i dissidi, diciamo. Sta di fatto che questi facilitatori, questa equip di facilitatori, semplicemente traghetterà ciò che resta di Mondeggi bene comune verso l'abbraccio mortale con la città metropolitana di Firenze, e farà sì che i dissidenti debbano tagliare la corda. Quindi sancirà, insomma, in poche parole, la vittoria della maggioranza sulla minoranza, e anche e poi dopo proporrà una rielaborazione del metodo del consenso, appunto, come dicono le compagne e compagni che hanno scritto l'opuscolo. Sì, una volta eliminati i dissidenti, hanno riformulato una formula del metodo del consenso, vantandosene su Facebook. Per dire che io non parlerò, ho detto queste cose perché comunque poi dopo vi do gli estremi dell'opuscolo, che è interessante da leggere, insomma, nel suo complesso. Io magari quella parte lì molto così che appunto sulla nave dei Folli è specificata in modo molto dettagliato, non la toccherò. Vorrei toccare invece che cosa è il PNRR rispetto, cioè che cosa implica rispetto alla, appunto all'agricoltura, e poi appunto questa dilaniante insomma faccenda che colpisce, sì, che ha colpito gli occupanti. Gli farò male. Ecco, allora vediamo che cosa scrivevano le compagne e compagni appunto occupanti di Mondeggi nella carta dei principi di Mondeggi Bene Comune. Dicevano: si esprime la volontà di generare ricchezza diffusa, sociale, ambientale e relazionale, costruendo un'economia locale che si autosostiene, che conserva il patrimonio naturale ed edilizio e lo mantiene accessibile e fruibile, impedendo ulteriori sprechi di denaro pubblico, e intende promuovere stili di vita sobri basati sulla pratica di forme di autocostruzione e autorecupero. E appunto in questo opuscolo si dice: ma com'è possibile insomma continuare a portare avanti questi principi nel momento in cui si accetta di essere tirati dentro insomma in un progetto di riqualificazione che appunto viene chiamato in realtà degenerazione, finanziato dal PNRR. E allora il PNRR è appunto questo progetto di accelerazione tecno-digitale che riguarda un po' tutti i settori, no? Praticamente l'Europa dà questi soldi, che poi sembrano chissà quanti, in realtà poi vanno anche restituiti in parte, quindi è anche un po' un bluff, diciamo, ma comunque elargisce agli stati tutta una serie di soldi, insomma di denaro, per riprendere perché affinché l'economia si riprenda dopo appunto la crisi degli anni della pandemia. Diciamo che questa, gli stati poi devono impegnarsi, che gli stati che ricevono questi soldi devono impegnarsi per portare avanti questo progetto di accelerazione tecno-digitale. Ci spiegano qui che appunto è questa accelerazione tecnologica riguarda un po' tutti i settori, si va dalla quindi vengono finanziate tecnologie digitali, automazione, data science, intelligenza artificiale, robotica, bio e nanoscienze. Si va appunto dalla scuola, quindi dalla digitalizzazione spinta della scuola alla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Poi dopo c'è il discorso della sanità, anche qua. E poi vediamo insomma anche riguardo all'agricoltura, cioè, se ne parla nella missione 2, rivoluzione sotto la voce rivoluzione verde e transizione ecologica, appunto. La pandemia ha costituito il grimaldello che ha permesso di giustificare il rilancio di questo assalto tecno-digitale, che prende forma nel Green Deal europeo, appunto. E allora vediamo quali sono le linee progettuali del PNRR rispetto al comparto agricolo. In questo settore il piano prevede 4 ambiti di investimento principali che rientrano nella missione 2, come dicevo prima, rivoluzione verde e transizione ecologica. E andiamo a leggere allora. Dunque, nel uno dei pilastri centrali del Green Deal europeo, secondo la quale c'è questa strategia from farm to fork, dal campo praticamente alla forchetta, e secondo la quale la pandemia ci ha finalmente fatto aprire gli occhi sulle interrelazioni tra la nostra salute, gli ecosistemi, le catene di approvvigionamento, i modelli di consumo e i limiti del pianeta. Per rendere il nostro sistema alimentare più sostenibile e resiliente, difenderlo dalle costanti minacce dovute a siccità, inondazioni, incendi e organismi nocivi, la strategia è semplice: gli agricoltori devono trasformare più rapidamente i loro metodi di produzione, utilizzare al meglio nuove tecnologie, in particolare attraverso la digitalizzazione, per ottenere migliori risultati ambientali, aumentare la resilienza climatica e ridurre e ottimizzare l'uso dei fattori produttivi. Insomma, diciamo, aggiungiamo noi invece, insieme ai compagni e alle compagne che hanno scritto l'opuscolo, i disastri causati dall'agroindustria sarebbero risolvibili affidandosi a un controllo informatico onnipresente che, razionalizzando l'uso di pesticidi e risorse, renderebbe magicamente sostenibile lo stesso modello agroindustriale. Quindi c'è questa appunto mistificazione della digitalizzazione come sostenibilità. Appunto, diciamo che questa digitalizzazione, questa spinta sulla verso l'agricoltura 4.0 e sulle tecnologie sempre più avanzate, ha anche l'effetto di creare sugli agricoltori un'enorme pressione, no? Quindi abbiamo parlato tante volte della meccanizzazione dell'agricoltura, che oltre a spossessare i contadini di tutta una serie di competenze, di esperienze, insomma, dirette, e li ha anche portati a correre dietro, diciamo, a cambiare completamente la modalità di coltivazione, ma anche a correre dietro alle attrezzature, ai trattori, per capirsi, anche, no? E in una corsa, e quindi a indebitarsi progressivamente per acquistare macchinari sempre più sofisticati, eccetera. Con questo discorso di spingere sull'agricoltura 4.0, questa cosa viene più accelerata, no? E chiaramente ci guadagnano i produttori di queste tecnologie. Ecco, infatti, si può dire, cioè, mentre il PNRR sostiene che la digitalizzazione equivale alla sostenibilità, si può dire che in realtà la tecnologia digitale diventerà il fulcro della catastrofe ecologica. Anche perché appunto la digitalizzazione è di per sé devastazione ambientale, no? Basta pensare all'estrazione di minerali e terre rare, sia per la produzione di energia elettrica, cioè sia per l'estrazione che per la produzione di energia elettrica, che serve a tenere accesi i data center e a gestire il flusso sempre crescente di informazioni. Quindi l'agricoltura cosiddetta di precisione è un investimento a lungo termine nel processo di distruzione degli ambienti di vita, perpetuato dovunque sulla terra. La sua pretesa ecologica è una mostruosa menzogna basata sulla quasi invisibilità sociale in Occidente delle devastazioni necessarie per la produzione e il funzionamento dei dispositivi informatici. E vabbè, abbiamo già detto della perdita delle competenze legate alla terra, si tratta proprio di una perdita di intelligenza sensoriale. Ecco, poi un'altra cosa importante: la potenza tecnologica e la robotizzazione continuerà a promuovere la diminuzione degli agricoltori e la concentrazione delle terre per via delle economie di scala che favoriscono le grandi aziende e i grandi proprietari. E, poi c'è il discorso della logistica, che proprio è praticamente un capestro, nel senso che sviluppando sempre di più la logistica, appunto i contadini vengono messi, chiaramente si privilegia la grande distribuzione, i contadini vengono messi in croce e in ginocchio perché devono entrare in quel meccanismo lì di produzione, anche di sovrapproduzione, anche se poi andrà buttata via, non andrà venduta o andrà sprecata, buttata via insomma una parte della produzione. Questo discorso di avere subito just in time, insomma di avere gli ordini all'ultimo istante continuamente, quindi rispondere a tutte le richieste, e poi insomma il discorso anche della movimentazione attraverso su gomma o non su gomma, ma in tutti i casi della movimentazione attraverso mezzi di trasporto, insomma del cibo. Quindi anche distanza, diciamo, questo distacco, questa non sapere più da dove proviene il cibo che mangiamo, e quindi questa situazione di estraniamento, insomma, radicale, molto molto grave. Appunto, proprio l'esperienza di Mondeggi, bene comune, fattoria senza padroni, andava proprio a, cioè lo scopo era proprio questo, invece di riappropriarsi, no, di combattere questo, contro questa espropriazione, e di riappropriarsi appunto di tutte queste cose. E vediamo però che cosa succederà, magari mettiamo ancora un po' di musica e poi... Lo stallone italiano, il campione mondiale in carica dei pesi massimi, Rocky Balboa. Superare la paura, o voglio diventare cane da guardia. Che peccato, da fattoria senza padroni a fattoria senza contadini, senza assemblea ed infine senza rondini, ma in compenso molta edilizia e molta ristorazione, come Firenze. E questa era una mail che un compagno, appunto, che aderiva, diciamo, alla comunità, ha inviato, sì, per commentare, insomma, le scelte di Mondeggi. Allora, il progetto di riqualificazione della tenuta di Mondeggi si inserisce nell'ambito della missione 5 del PNRR. Questo missione 5 recita inclusione e coesione, nello specifico è finanziato dall'investimento dei cosiddetti piani urbani integrati, che prende di mira le periferie della grande città con una pianificazione urbanistica partecipata, con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili. Il progetto di rigenerazione di Mondeggi è per i suoi promotori un tassello fondamentale del piano urbano integrato fiorentino, il Next Regeneration Firenze 2026, che avrebbe lo scopo di promuovere il miglioramento di ampie aree urbane degradate attraverso azioni di rigenerazione urbana e rivitalizzazione economica. Quindi, dietro alla retorica su sostenibilità, comunità, benessere e inclusione, si cela la perfetta continuità con le politiche di gestione della città neoliberale che hanno disintegrato Firenze negli ultimi anni. Il Rinascimento metropolitano, infatti, la nuova bandiera della stessa classe di politici e amministratori che hanno fatto di Firenze la città del turismo, del decoro, degli sfratti, delle mille telecamere smart, la città che anticipava le zone rosse della gestione pandemica, istituendo di sua sponte zone rosse a protezione dei cittadini per bene, in cui le fioriere valgono più delle persone. E allora, che cosa succede che quando avviene questa proposta, appunto, da parte della città metropolitana di Firenze agli occupanti, e c'è come un momento di sì, chi ha steso l'opuscolo, cioè dice che praticamente c'è la compagine, diciamo, di tutti i partecipanti di Mondeggi Bene Comune era molto varia, no? Eterogenea. C'era anche tutta una parte che puntava molto, che teneva molto a questa cosa del bene comune, un riconoscimento, diciamo, come dell'esperienza come bene comune, una sorta di riconoscimento giuridico, però eretico, nel senso che non si muovevano nell'ottica di un riconoscimento come nell'alveo del terzo settore, per capirsi, ma un riconoscimento che non era né cioè come di una realtà né pubblica né privata, no? Quindi una roba un po' controversa, magari, non so, dal nostro punto di vista, però comunque c'era questa tensione qua, e quindi c'erano anche tante diversità, diciamo, all'interno delle varie assemblee di gestione della, ad esempio, c'era un divario tra quelli che occupavano, che avevano fatto l'occupazione e che avevano coinvolto in questa occupazione tutta una serie di forze anche antagoniste, giovani, insomma, che venivano un po' da tutta Italia, e magari poi dopo l'associazionismo che si era avvicinato che fiancheggiava non occupava, no? Quindi tutta una serie di differenze. E c'è questa specie di l'idea dei soldi, diciamo, di poter fare l'illusione anche di poter fare quello che avevano fatto per 7 anni, e cioè lavorare la terra in una certa maniera, vivere in comunità in una certa maniera, e sì, come così, una, appunto, molte comunarde, diciamo, vengono inebriate da questa idea di poter avere maggiori mezzi e per poter fare le stesse cose, e perdono la bussola, insomma. Cioè, poi non è che perdono la bussola perché sono scemi, cioè chiaramente c'è tutta una serie di interessi dietro, di dinamiche di interesse, di scarti di coscienza, insomma, tra le varie soggettività che fanno parte. Comunque sì, in pratica questa roba devasta appunto la vita della comunità, e pian piano si afferma, perché c'è come una sorta di, cioè i compagni e le compagne qua dicono, insomma, per non andare fino in fondo, cioè per non affrontare anche in maniera conflittuale all'interno della, del, di Mondeggi queste questioni qua, si rimane da un lato, chi è contrario rimane tramortito e quindi va avanti ma non prende parte alle trattative, però nemmeno le sabota apertamente, e insomma vanno avanti così temporeggiando e avanti, però in questa situazione qua. E poi si illudono i promotori, diciamo, quelli che vogliono questo accordo, si illudono di poter vigilare, no? Di poter portare dei loro contenuti, appunto di poter vigilare sulla catastrofe, e in questa roba qua si inseriscono appunto i tecnici e i politici, cioè i politici prima si inseriscono, poi mandano, poi i politici si negano nel momento in cui si cerca un confronto, si negano e mandano avanti i tecnici. E le solite cose, insomma, i tecnici che sono, fanno i compagnoni, cioè gli amici, e poi prima i tecnici accettano di parlare con tutta l'assemblea, poi cominciano a dire che tutta l'assemblea non è funzionale, che quindi ci vogliono dei delegati, ma insomma le robe così che come vanno avanti solitamente quando si accetta che lo Stato entri, insomma. E però un'ultima cosa che volevo dire è questa, che viene, beh, intanto le compagne e i compagni ci dicono poteva andare diversamente, no? Cioè dicono, spaventati dall'eventualità di uno sgombero e preoccupati solo della propria sopravvivenza, si è scelto di accettare ciò che pioveva dall'alto, soldi e guinzaglio insieme. Di fronte a un bivio cruciale, Mondeggi Bene Comune ha scelto al ribasso la strada della conservazione del proprio orticello, illudendosi di poter resistere come un'oasi, ma nel deserto del rinascimento metropolitano non possono sopravvivere i germogli dell'autogestione e dell'agricoltura contadina se non come miraggi. Dall'altra parte la strada non presa, quella rischiosa ma vitale della resistenza, la scelta di avere fiducia nella tenuta dei propri legami, nella forza dei propri muscoli e nel valore di ciò per cui si lotta, l'intuizione che l'unica speranza di uscire dall'angolo in cui siamo confinati verrà dalle nostre capacità di esprimere conflittualità e difendere l'alterità radicale dei nostri percorsi, e che non beneficeremo dal cedere terreno, dal fare passi indietro pur di conservarci, dall'adattarci alle griglie soffocanti della controparte pur di non essere spazzati via. Questa strada avrebbe significato opporsi in toto ai progetti metropolitani, iniziare una mobilitazione contro il PNRR e prepararsi a resistere a un eventuale sgombero. Qui avrebbero potuto trovare un punto d'incontro, un insieme di lotte che spesso procedono su binari separati, da quelle più legate al mondo contadino e all'autodeterminazione alimentare, fino all'ecologia radicale, alle realtà urbane che si oppongono a gentrificazione, cementificazione, messa a profitto e gestione securitaria delle città. Proprio perché la Mondeggi 4.0 raccoglie in sé tutte le aberrazioni di questa società in cui la crisi climatica giustifica la distruzione di nuovi ecosistemi. Ecco, e appunto concludo con questo, invitandovi ad andare ad approfondire, se volete, insomma, se vi interessa. E l'opuscolo è scaricabile da mondeggibenecomunque.noblogs.org. Allora, ci dicono riguardo all'enorme danno che fa Mondeggi non solo a se stessa, diciamo, ma che cosa succede? Avvengono degli sgomberi a Firenze e questa Mondeggi qua che patteggia, che lavora insieme alla Firenze, alla città metropolitana di Firenze, fa comunicati di solidarietà, no? Però fa comunicati di solidarietà che sono parole vuote, diciamo, oppure insiste nel voler tenere questa sottotitolo Fattoria senza padroni, quando gli occupanti che se ne vanno, insomma i dissidenti, dicono no, togli, però Fattoria senza padroni lo togli, si incazzano, dicono no, fa parte del nostro bagaglio, noi non lo togliamo. Nel momento in cui invece e l'istituzione comunale, sì, metropolitana, dice no, togli Fattoria senza padroni perché è troppo forte, i partner potrebbero non accettare, ah va bene, tolgono Fattoria senza padroni, e avanti tutte aneddoti di questo tipo. Però l'enorme danno che fa Mondeggi è questo: anche a seguito di questa svolta, continua a mobilitare un linguaggio e un immaginario radicale mentre mercanteggia con i politici metropolitani, lasciandosi riassorbire e sbandierare come fiore all'occhiello della riqualificazione green e inclusiva. L'esperienza diventa così funzionale alle logiche del potere, contribuendo a nascondere le vere conseguenze del PNRR. Invece di opporsi alla catastrofe, appunto, si contribuisce alla sua gestione partecipata. Infatti, se andate nel sito di Mondeggi Bene Comune, loro continuano anche a chiamarsi fattoria, diciamo, nel sito continuano a chiamarsi Fattorie Senza Padroni e continuano, insomma, sì, a portare avanti questa immaginario ideologico che è una sorta di social washing e che è un danno perché crea confusione e sì, annacqua, insomma, annacqua le lotte reali e appunto insomma non aiuta i vari processi che già sono difficili e faticosi, insomma, i vari processi di autogestione e di auto-organizzazione. Bene, allora teniamo sfumato, cioè in sottofondo, questo brano. Loro sono i CGB, band storica che si è formata negli anni 80 sono liguri per l'esattezza della zona di Imperia. Questo è il loro album che era uscito nel 2002, che si chiama Balboa. Mentre in sottofondo, tra i vari interventi, sentivamo i Buzzcocks, band storica del punk inglese che si è formata negli anni 70. Addirittura i brani che sentivamo sono di una recente uscita, sempre su vinile, dove sono andati a ripescare un demo datato 1977. Ora, finiti questi, anzi sono ormai finiti i CGB, andiamo ad ascoltarci questa band statunitense. Loro sono i Days and Days. Gay, all solace, all beauty, all is stripped away. Gallons with dead stains. The essence of an elite going for some control. And then in contrast, there's something left to calm the mind. A catastrophe, an overwhelming apathy. Try to make me better than a touch of friendship point. Once you lost the will to live, you're no longer a freaking die. Bring the fucking reaper, you coward in my teeth. Nihilistic, lawful interest in preserving any riches. Let the fuckers burn eyes, I'll leave me in my hate. All solace, all beauty, all is just stripped away. Once the storm is ended, turn to gold and conquer gay. All solace, all beauty, all is just stripped away. Now let's whip the day. Eccoci qua, un saluto a tutte e tutti voi, e un saluto particolare a chi ci ascolta in situazioni di restrizione della libertà. Nel prossimo così blocco di questa puntata del 12 febbraio di Zardins Magnetics andremo a dare un po' di attenzione a due lettere che provengono appunto da dietro le sbarre, e in particolare da due compagni. Insomma, sono due lettere diverse. La prima appunto proviene da è stata scritta da un compagno di cui abbiamo già parlato in passato, che è David, e David si trova recluso a Piacenza, al carcere di Piacenza, in seguito a una condanna definitiva a 6 anni e mezzo a causa del appunto il reato di devastazione e saccheggio per la giornata di lotta del 15 ottobre 2011 in piazza San Giovanni a Roma, se ricordate. Ma in questo momento, cioè recentemente, è stato sottoposto a un procedimento che è relativo a una sua presunta, dicono loro appunto, presunta insomma un adesso non mi ricordo il preciso reato, comunque era una situazione per cui c'era una mobilitazione in corso nel 2021, e che, di cui adesso vado a parlarvi meglio. E David è stato insomma condannato, accusato e condannato per aver manifestato, in sostanza, ecco, in una forma che alle autorità non va bene. La mobilitazione di cui appunto si tratta era l'inizio del 2021, come detto. Appunto c'era Dimitris Koufoundinas in sciopero della fame, dall'8 gennaio appunto 2021 per 65 giorni fino al 14 marzo 2021, in seguito al fatto che il compagno appunto greco dell'organizzazione armata 17 novembre era stato ingiustamente trasferito in una colonia praticamente penale e semplicemente appunto aveva no semplicemente si era dovuto aveva dovuto entrare in sciopero della fame per appunto cercare di opporsi a questa decisione delle autorità. David ha letto la dichiarazione appunto nel processo in seguito a un presidio al consolato greco di Milano, marzo 2021, è stato condannato alla fine a 4 mesi e mezzo per resistenza e lesioni in primo grado. E vado adesso a leggervi. Per questa mia dichiarazione dovrò prendere in prestito le parole di Dimitris Koufoutinas, un compagno, militante del gruppo 17 novembre, che all'epoca dei fatti contestati era all'età di 63 anni da più di un mese in sciopero della fame. Era la quinta volta che intraprendeva questa lotta contro la riforma carceraria del governo Mitsotakis. Questo è un suo scritto di quei giorni. La solidarietà è la condizione vitale che ci unisce nelle lotte. Ringrazio tutte le persone per il loro sostegno, che non è stato il sostegno ad una persona, ma ad un momento di lotta contro un potere disumano. Solidarietà e sostegno che hanno dimostrato che esistono forze sociali vive che resistono all'arbitrio, alla violenza e all'autoritarismo. E questa è una nuova speranza. La famiglia al potere ha dimostrato quanto sia spietata nel suo non rispettare neanche le sue stesse leggi e la Costituzione nell'amministrazione della giustizia. Questi vengano giudicate delle persone che scendono in piazza. Quello che sta succedendo là fuori è molto più importante di quello a cui è iniziato di fronte alla potenza di queste lotte. Dichiaro da parte mia che con il cuore, con la mente ci sono anch'io, in mezzo a voi. Ecco, qui si conclude la citazione di Koufoutinas. Ecco la motivazione per cui io, riprende David, e altri solidali eravamo davanti al consolato greco. Era un'iniziativa internazionalista in sostegno a Dimitris e contro il governo greco che prima col suo nuovo pacchetto di leggi aveva previsto la riclassificazione dei detenuti condannati per terrorismo presenti nelle carceri rurali e il loro trasferimento nell'ultimo carcere in cui erano ristretti. Tuttavia, l'amministrazione penitenziaria, manipolando i documenti, lo aveva trasferito invece che a Korydallos alla struttura di Domorus, un carcere duro. Di fronte al trasferimento, Dimitris ancora una volta aveva deciso di lottare mettendo in gioco il proprio corpo come un'ultima arma possibile. Come posso io non rinnovare oggi, come allora, la mia solidarietà? Io, che l'anno seguente ho avuto la fortuna di essere abbracciato in occasione del mio arresto dalla solidarietà dei compagni greci detenuti a Korydallos, compagnia a cui va tutta la mia riconoscenza e complicità. Come posso non trovare le somiglianze e le forze tra le mobilitazioni a sostegno di Dimitris e la campagna di lotta che ha sostenuto il compagno Alfredo Cospito, anche lui costretto a usare il suo corpo come arma contro l'infame tortura del 41 bis. Tortura che tuttora sta subendo nel carcere di Bancali, così come le oltre 700 persone condannate a questo inumano regime. Regime contro cui continuerò sia da libero che da prigioniero a lottare. Riguardo questo processo, mi tornano in mente le parole di un teste dell'accusa in quest'aula. Con quelle persone è impossibile avere una discussione civile. Ebbene, la vostra civiltà è basata sullo sfruttamento dell'uomo sulla natura e sull'uomo stesso. Per mantenere ciò servono gli stati coi loro tribunali e le loro gabbie, i loro giudici e le loro guardie e tutto il marciume necessario a garantire la pace mercantile. Questa civiltà necessita di uno stato di guerra continua, interna ed esterna, all'interno, reprimendo i refrattari alle regole, reprimendo la solidarietà, come si sta cercando di fare in questo processo, e quelli contro le azioni in sostegno ad Alfredo. Sul fronte interno, la guerra necessita di prigionieri, non importa che la maggioranza siano gli esclusi della società stessa. Vivo, quotidianamente, le sezioni piene di tossicodipendenti, immigrati, poveri ed emarginati dalla civiltà, colpevoli di reati irrisori, ben lontani dalla spettacolarizzazione del criminale che quotidianamente spacciate. Sul fronte esterno, la vostra civiltà necessita di guerre continue come il genocidio attuato ai danni del popolo palestinese e le centinaia di altri conflitti militari, dimenticati o meno, in cui l'Italia, se non è direttamente implicata con i suoi militari, ne è comunque complice con i suoi interessi. Ecco, questo e molto altro è lo schifo che voi definite civiltà, ed ecco perché il tutore dell'ordine, che in questa sala mi ha di fatto definito incivile, mi ha fatto un complimento, in quanto io non solo non voglio rispettare le regole imposte da questo tritacarne che voi definite civiltà, ma vivo nel sogno di distruggerla. Alla vostra repressione risponde la solidarietà, alle vostre guerre la diserzione, alla vostra violenza la costruzione dell'utopia e l'intenzione di continuare a farlo. Scusate, alla vostra violenza la lotta, non ho nulla di cui pentirmi, ho sempre cercato di vivere nella continua costruzione dell'utopia e ho intenzione di continuare a farlo. L'unico rimpianto che possa avere è di non aver fatto di più che rafforzare le lotte, rimpianto che mi porta solo a raddoppiare il mio impegno, sempre complice e solidari con Alfredo, Dimitris e tutte le individualità in lotta contro lo Stato e lo sfruttamento, sempre per la distruzione totale di ogni gabbia, sia essa fisica o mentale. Per l'anarchia, David, 6 novembre 2025. Per scrivere a David, l'indirizzo è Strada delle Novate 65, 29122 Piacenza, naturalmente è il carcere. E parlando di appunto di risposta alla cosiddetta civiltà, cioè quelle che sono le pratiche della diserzione, insomma del sabotaggio e della lotta, in questi giorni in cui appunto viene esposta in tutto il suo così fulgore la devastazione compiuta in nome delle Olimpiadi invernali, con l'enorme impatto sull'ambiente, lo spreco di risorse pubbliche, fondi per opere cosiddette fondamentali non terminate in tempo per l'evento e grosse masse di biglietti invenduti e case sfitte con territori devastati e militarizzati, qualcosa si muove. In particolare appunto c'è un sabotaggio incendiario della linea ferroviaria a Pesaro il 7 febbraio. Rompere il ghiaccio, rivendicazione del sabotaggio incendiario della linea ferroviaria contro i giochi olimpici, Pesaro 7 febbraio 2026. All'alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro nelle Marche. Questa azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo spettacolo delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano-Cortina 2026. Tra i vari partner ufficiali di questi giochi ci sono aziende come Leonardo, Eni, Gruppo FS, che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista. solidarietà combattiva con tutte e tutti i lavoratori che si ribellano allo sfruttamento dei padroni, con i popoli in lotta per la liberazione della loro terra e con chi insorge contro questa società. E libertà per tutte e tutti i ribelli in gabbia. Ecco, la seconda lettera che abbiamo scelto invece di una manciata di giorni fa è di un compagno che non è proprio un neofita, nel senso che ha partecipato a varie mobilitazioni, insomma, di una generazione, insomma, quelle, come possiamo dire, doc, dai. Paolo Todde è attualmente ancora in custodia cautelare in seguito all'arresto del 23 ottobre 2024. Imputato di rapina in concorso in rapina, scusate. È un compagno, appunto, dicevo, che ha più di 60 anni, quindi ha alle spalle vari cicli di lotte che ha sostenuto, antimilitariste sul territorio, appunto sardo in questo caso, e non è la prima volta che finisce dietro le sbarre. Particolare, si parla di una rapina, per spiegarvi un po' il contesto, in una in un centro scommesse, quindi cioè non è, ecco, è una di queste così strutture, chiamiamole strutture, non so, succhia sanguisughe della gente. Mi arrischio a dire disperati, ma nel senso che, per dire, non so, io personalmente sono circondato, ad esempio, di personaggi così che dissipano, faticano e poi vanno a incentivare invece l'attività di questi qua, di questi sanguisughe. Ha svolto uno sciopero della fame lo scorso, insomma, primavera, che è durato dall'8 maggio al 21 giugno, 44 giorni di sciopero della fame, poi sospeso perché tra l'altro giugno del 2025 c'erano 40 gradi. Sì, è stato un giugno particolarmente caldo, intendo, in più farlo dentro in gatta buia ancora di più, ed era una sua lotta per le condizioni invivibili, sovraffollamento, chiusura della cella per 22 ore su 24, l'acqua imbevibile, cioè resa possiamo dire tra virgolette potabile in seguito a tonnellate di cloro, ma era acqua contaminata, quindi non utilizzabile neanche per sanitario, insomma per uso sanitario, oltre che imbevibile, e l'assistenza sanitaria inesistente, e in seguito appunto vessazioni, per cui ritardi sui colloqui, le videochiamate stranamente si interrompevano, cose del genere, ecco. Dal 27 gennaio c'è giunta, in data 27 gennaio è stata pubblicata questa nuova sua lettera, che vi vado a riassumere, poi leggiamo la parte finale, e lui chiede appunto, cioè chiarisce un po' qual è la situazione sua, che avrebbe voluto intervenire nell'udienza per la richiesta dei domiciliari, che ha sostenuto a metà dicembre circa, ma non ha avuto né la forza né la lucidità, perché ha un carattere per cui si descrive lui così, che era una situazione per lui insostenibile, ecco, e inoltre è stato interrotto dal presidente. Gli è stato impedito, non è stato interrotto, quel carcere lì praticamente, lui adesso appunto descrive dicendo che è un lager di disperati, stessa cosa che diceva prima David nell'altra lettera, dove un lager di disperati dove regna il sadismo del personale addetto insomma alla sorveglianza, i cosiddetti appunto secondini, e però è anche importante, mette in evidenza come è importante lo scambio con l'esterno. Lo scambio con l'esterno è quello che permette di, oltre che rompere un tabù, anche di rendere il dispositivo del carcere meno diciamo efficace di quello che è, no? Nel senso che quello che fa il carcere è nascondere, occultare, isolare. Non è un caso appunto che i secondini siano sadici, nel senso che non è una loro. Sicuramente è stata svolta una selezione su quel personale, ma quello che loro svolgono ha il preciso obiettivo di rendere appunto impossibile il passaggio da dentro il carcere a fuori, no? Non bisogna tenere nascosto, bisogna occultare quello che succede dentro il carcere, no? Se appunto i presunti scopi appunto di reinserimento della struttura sono materialmente impossibili, perché il campetto sportivo è inagibile, perché la biblioteca è praticamente come si dice blindata, no? Ma da fuori deve risultare che esiste una biblioteca ed esiste un campo sportivo, che dopo nessuno ci vada, non deve filtrare. E allora in seguito a queste così chiamiamole denunce, dai, descrizione dello stato del carcere di Utah, e sì, cominciano delle rappresaglie, no? Che si vanno a vengono fatti nomi e cognomi da Paolo, delle guardie, dei capoposto, dei secondini, dei coordinatori vari, delle brigadiere, ma anche di quelli che hanno risolto, comunque, perché al di là di tutto, anche uno che, cioè anche delle così vessazioni, anche come possiamo dire, che non ha nessuna anche funzionalità allo svolgersi quotidiano, no? della routine carceraria, un coordinatore che ha un minimo di lucidità, no? di anche coscienza di poter andare avanti, no? Nel quotidiano, la risolve se può, no? Cioè tipo anche la questione che di cui parla sul blocco del quotidiano, no? Del giornale che gli è lì, dell'Unione Sarda, veniva praticamente ammassato in modo da raggiungere il numero di chili che poi impediva la consegna dei pacchi, no? del vestiario, eccetera. Boh, vabbè. Dice per ritirare i giornali dovevo supinamente accettare che questi invii figurassero come pacchi postali, perché appunto gli arrivava in ritardo, no? Ha fatto l'abbonamento ma arrivava in ritardo. Ovviamente io rifiutavo tutto ciò e i giornali si accumulavano nel casellario del carcere. Tutto questo era fatto per impedire alle persone che venivano in carcere a farmi colloquio di portarmi dei pacchi con roba da mangiare, vestiario e altre cose permesse. In un mese ogni prigioniero non può ricevere più di 4 pacchi nel carcere di Utah per un massimo di 20 kg al mese. Al conto non si possono mettere giornali, riviste e libri perché hanno un'altra procedura. Maestri, virgolette, di questa viltà erano Pinto e Nonnis, due secondini, un coordinatore del piano, il secondo in questo caso, l'altro al casellario, alla fine un brigadiere della sorveglianza ha risolto il tutto facendomi avere giornali, una cinquantina, riviste e libri. Non so come abbia saputo di questo stupido giochetto. Sono diversi mesi che io cerco di poter fare una visita una visita odontoiatrica con una dentista che viene da fuori. Non ci sono mai riuscito perché o manca la mia richiesta, falso, visto che io le facevo, oppure Chiara, la dentista, veniva cacciata perché fuori tempo massimo. Quindi io saltavo la visita, anche perché malgrado fossi messo in una lunga lista di pazienti, finivo sempre ultimo. Poiché io ho già subito una condanna, sono finito nelle grinfie di Borrutto, direttore del carcere, e secondo la prassi dovrei fare la domanda a lui per poter fare questa dannata visita odontoiatrica. Tutte le domandine che ho fatto nel tempo non valgono più. Comunque mi rifiuto di fare domanda a Borrutto, ma porrei su dolori e casciali, ovvero mi approprio i dolori e li sciacquo via. Anche di questa situazione c'è di mezzo un secondino. Ho scoperto di soffrire. Poi qua descrive altre situazioni dentro appunto per opporsi al fatto che dell'affollamento, nel senso che in questo momento nella sezione dove si trova Paolo Todde c'è una situazione di 10 metri quadri con 4 letti, ma 3 coincellini. Quando viene portato il quarto dalle guardie, lui fa casino, prima cerca di urlare, la seconda volta perché loro ritornano spacca uno schermo del televisore, la terza insomma fa altri danneggiamenti e si prende ovviamente altre denunce, però per il momento insomma il quarto in cella è riuscito. Un 10-15 giorni dopo un nuovo blitz hanno fatto entrare un quarto in cella, ma sono riuscito a uscire dalla cella e mi sono procurato una scopa e uno spazzolone, con quelle ho distrutto numerose lampade del corridoio della sezione, anche allora scampato pericolo, però con due denunce sul gruppone perché a nessuno importa delle mie sofferenze. Per quanto ancora dovrò combattere, dovrò prendere denunce per evitare di star male, sono più di 14 mesi rinchiuso in una sezione con celle chiuse. Ho fatto 44 giorni di sciopero della fame per protestare contro l'inquinamento di coliformi fecali nell'acqua che sgorga dai rubinetti delle celle, per una migliore fruizione della biblioteca del campo di calcio del carcere. Ora biblioteca blindata, campo di calcio chiuso, sono stato sconfitto, diciamo vinto, ma non convinto. Ma ho salvato la vita a due compagni di cella, che impiccandosi cercavano la morte per sfuggire alle loro sofferenze, questo con l'aiuto di un altro compagno di cella, in due situazioni temporali distanti. Sono recidivo di situazioni scabrose in carcere. Nel 2020-21 ho avuto a che fare con un ispettore, Sanna, che ora sta a buon cammino, che come mi vedeva mi faceva il saluto fascista e o cantava Faccetta Nera. Ho raccolto e fatto uscire storie di disperazione e altri insomma fatti, successi tragici, insomma, ok, ne ho tante altre di storie così, più o meno funeste, sicuramente tristi, e io imperterrito continuerò a documentarle e a farle uscire dal carcere. So benissimo anche che se avessi seguito il consiglio di un amico diciamo sarebbe meglio fare lo scemo e non pagar dazio, ma io sono un inguaribile idealista ed è più forte di me. Alla prepotenza e alla vigliaccheria non so fare come lo struzzo, è più forte di me, devo dire la mia, non riesco a voltarmi con nonchalance e questo mio modo di fare lo pago sempre. Ricordiamo appunto, per mettersi in contatto di penna con Paolo Todde bisogna scrivere al carcere Scalas di Uta, 09068 Uta, Cagliari. Sì, io cercherei, insomma, si cerca sempre questa ora e mezza che abbiamo di dare un po' di spazio, no? E cercheremo anche nelle prossime puntate a questi importanti queste testimonianze di lotta di detenuti, di prigionieri che sono in lotta, che non accettano di piegarsi e che sono sicuramente di esempio e che vanno sostenuti in tutti i modi possibili. Bene, sulle note di questi Days in Days, band del Texas, questo è un loro album uscito nel 2013 che si chiama Rogue Taxidermy, e appunto, come dicevo, sulle note di questo brano, vi ricordo che siamo all'ascolto di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dal studio di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Proprio in questo momento siamo proprio strettissimi, siamo al termine. Ricordo che siamo in diretta anche oggi 12 febbraio 2026. Ricordo velocemente i nostri contatti: se volete scriverci tramite posta elettronica scrivete a liberetutti@autistiche.org, oppure in forma cartacea scrivete ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo che questa trasmissione odierna, ma anche quella delle volte scorse, potete ascoltarle, riascoltarle sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, salutiamo tutti, anche chi ci ascolta in replica domani venerdì dalle ore 11 su Radio Eustachio, e chi ci ascolta dalle ore 17 su Radiazione. Comunque queste due sono due web radio. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e per pochissimi secondi vi lascio con i Days and Days. I've been brewing.